navigando il fiume mosso quando il coccodrillo si avvicinò e l'indianino guardò in basso, la canoa quasi voltò. Uno, due, tre indianini, quattro, cinque, sei indianini, sette, otto, nove indianini, dieci nella canoa. Stava navigando il fiume mosso quando il coccodrillo s'avvicinò e l'indianino guardò in basso, la canoa quasi voltò.